Letture di Radio 24. Per scoprire gli angoli più insoliti di Parigi bisogna avere lo spirito flâneur, quello di chi passeggia senza fretta e senza scopo. Come scrive oggi Giuseppe Scaraffia sull'inserto culturale del Sole 24 Ore, a commento dell'uscita italiana di due guide turistiche molto particolari. Parigi, diceva Balzac, è un vero e proprio oceano. Percorretela, descrivetela. Troverete sempre un angolino vergine, un antro sconosciuto. L'inesauribilità della capitale, l'attrazione continua che esercita sia sui suoi abitanti che sui turisti, spinge chiunque a lunghe passeggiate, destinate a riprendere il giorno seguente con la certezza di non esaurire mai le infinite curiosità che si annidano ovunque. Scoperte che si rifrangono sui monumenti più noti, dal Louvre a Notre Dame, caricandoli ogni volta di nuovi significati. Per descrivere questo stato d'animo, Baudelaire aveva coniato un termine, flâneur, colui che passeggia senza fretta e apparentemente senza scopo, notando i particolari di un palazzo, la luce di una strada, l'aspetto dei passanti. Per farlo non mancano le guide, anche se molte, come aveva osservato Raymond Queneau, si limitano a riprendere il Dictionnaire historique de Rue de Paris, di Hilaire. Oggi sono uscite due guide simili e diverse, come tutto ciò che riguarda la capitale. Quella di Queneau, uno degli autori più intimamente parigini, basti pensare all'esilarante Zazie nel metrò, consente di fare una magnifica figura. Chi potrebbe sapere che il primo ristorante di Parigi risale al 1766 e si trovava in Rue de Pouilly? Ma è ancora più interessante il seguito, perché Queneau ci spiega che il nome ristorante deriva da un fatto molto semplice. Vi si vendeva un consommé, cioè restaurant, ristoratore. Come se non bastasse, aggiunge che quelli che sarebbero stati chiamati i ristoratori potevano, a differenza dei locandieri, servire i pasti a qualsiasi ora. Con una restrizione, però, spazzata via come tante altre dalla rivoluzione del 1789, poteva offrire solo minestre, uova e pasta. Passiamo al bel saggio di Azin, anche lui espertissimo, e facciamogli una domanda difficile. Dov'era la Rue de Pouilly di cui parla Queneau? Al confine tra la zona elegante del Palais Royal e quella più commerciale dell'Halle. Poi una sorpresa. Quella stradina piena di profumi allettanti è diventata una parte della Rue du Louvre. A questo punto il vero flâneur, ormai dotato di smartphone o di tablet, scrive il nome della strada dimenticata su Google. Lì la scoperta prosegue. Da wikipedia.fr viene a sapere che lì, nel Settecento, ci pranzava un grande illuminista, Denis Diderot. Basta seguire la traccia su Wikisource ed ecco il resoconto di uno di quei pasti. A farcelo non è uno dei tanti anonimi turisti che gremiscono con i loro discordanti pareri sui ristoranti di ogni dove le pagine del web, ma Diderot stesso. Lo scrittore è soddisfatto del cibo, ma trova salato il conto. Meno male che lo stessa è davvero bellissima. Begli occhi, bella bocca, né grassa né magra, portamento elegante e agile, ma brutte braccia e brutte mani. A quel punto scendiamo sullo schermo e troviamo un'interessante nota. Il primo ristoratore della città aveva introdotto un'innovazione. Non metteva mai la tovaglia, ma come molti suoi eredi attuali, serviva direttamente su tavoli di marmo e riusciva, tra le maglie del regolamento, a proporre anche qualche pollo non in fricassea, come piaceva a Diderot, ma più castamente al sale. A questo punto abbiamo capito che Parigi va visitata con in tasca le due guide e in mano, approfittando dei molti wifi, un suggeritore sperimentato come l'iPhone. Torniamo a Queneau, un tipo strano, venuto dalla provincia, dotato, come Diderot, di una cultura enciclopedica, ma curiosamente incapace di vivere. Congedato dall'esercito, viveva di lavoretti e lezioni private. Per guadagnare qualche soldo, era disposto a tutto, persino a tentare di affibbiare tovaglioli pubblicitari ai ristoranti parigini. Per sbarazzarsi di quella sciagurata tendenza a gestire male le mie cose, era andato per 6 anni, 5 volte alla settimana, da una psicanalista. Peccato che la donna, una russa da poco a Parigi, capisse poco il francese. Per mettere un po' di burro sugli spinaci, era riuscito a superare la sua timidezza e a proporre nel 1936 a un giornale, L'Intransigeant, una rubrica di domande e risposte sui segreti di Parigi. Trasformatosi in un capriccioso ricercatore, lo scrittore aveva iniziato a percorrere la capitale alla ricerca di singolarità dimenticate da tutti. Poi era passato a indagare direttamente negli archivi e alla prefettura. Non importava se di tanto in tanto qualche lettore maniacale lo prendeva in castagna. La vita era incomprensibile, ma il passato di Parigi sembrava in grado di rispondere agli interrogativi più bizzarri, come la data dell'ultimo viaggio dell'ultimo omnibus a cavalli, 13 gennaio 1913, sulla linea Les Villettes-Saint-Sulpice. Chissà cosa volevano dire quei due 13. Il successo di quella rubrica non firmata rassicurò in modo inatteso l'autore, finalmente capace di guadagnarsi da vivere, al punto da farlo uscire dal consueto silenzio nelle riunioni dei surrealisti, da cui si sarebbe presto staccato per un intreccio di motivi personali e generali. Dopo 2 anni di lavoro gli era dispiaciuto smettere. L'esplorazione di Parigi è stato l'unico avvenimento notevole per me, l'unico in ogni caso che mi abbia fatto piacere. Ed è stata lunga riprendermi dallo shock causato dalla soppressione della mia cronaca. Alla sua morte, dalla cassetta di sicurezza della banca, affiorarono, come un ultimo rebus, degli oggetti preziosi solo per chi li aveva custoditi. Il ticket del metrò della sua prima uscita con la futura moglie e 6 quaderni su cui aveva puntigliosamente incollato tutti gli articoli dell'Intransigeant. Avete ascoltato la lettura della recensione di Giuseppe Scaraffia ai libri Conosci Parigi? Di Raymond Queneau e Parigi, l'invenzione di una città, di Erika Zahn, dall'inserto Domenica, allegato al Sole 24 Ore in edicola oggi.